le condizioni per l'ammissione alla scuola occulta non sono stabilite dall'arbitrio di qualcuno, risultano dalla natura del sapere occulto. Come nessuno può diventare pittore se rifiuta di prendere in mano un pennello, così nessuno può ricevere un'educazione occulta se non vuole adempiere alle richieste che il suo maestro ritiene necessarie. In sostanza, il maestro dell'occultismo non può dare che dei consigli. In questo senso va anche accolto tutto ciò che dice. Ha percorso le vie preparatorie che conducono alla conoscenza dei mondi superiori e sa per esperienza che cosa è necessario. Dipende solo dalla libera volontà di ogni singolo decidere se voglia o meno seguire quelle medesime vie. Chi volesse chiedere ad un maestro di insegnargli la disciplina occulta, senza volerne però accettare le condizioni, somiglierebbe proprio a chi dicesse: insegnatemi a dipingere, ma non mi chiedete di toccare un pennello. Il maestro dell'occultismo non può dare qualcosa se non gli viene incontro la libera volontà del candidato. Occorre però rilevare che il desiderio generico di conseguire la conoscenza superiore non basta. Tale desiderio è naturalmente comune a molti. Chi ha soltanto il desiderio, senza la volontà di accettare le condizioni speciali della disciplina occulta, certo non arriverà lontano. A questo dovrebbe riflettere chi si lagna che la disciplina occulta non risulta facile. Chi non può o non vuole adempiere a quelle severe condizioni deve rinunciare per il momento alla disciplina occulta. Le condizioni sono severe, ma non dure, poiché il loro adempimento non soltanto dovrebbe, ma deve essere un atto di libera volontà. Per chi non vi riflette, le condizioni richieste per l'educazione occulta potranno facilmente apparire una coercizione dell'anima o della coscienza. La disciplina consiste infatti in un'educazione della vita interiore. L'occultista deve perciò dare consigli che si riferiscono alla vita interiore. Non si può considerare coercizione ciò che si richiede come conseguenza di una libera decisione. Se qualcuno chiedesse al maestro: comunicami i tuoi segreti, ma lascia che io rimanga con i miei sentimenti, le mie emozioni e i miei pensieri abituali, chiederebbe appunto qualcosa del tutto impossibile. Cercherebbe soltanto di soddisfare la sua curiosità, il suo desiderio di conoscenza. Con un atteggiamento siffatto, mai si potrà conseguire il sapere occulto. Enumeriamo ora, per ordine, le condizioni che devono venire sviluppate dal discepolo dell'occultismo. Va sottolineato che di nessuna di queste condizioni si richiede il completo adempimento, ma solo lo sforzo per raggiungerlo. Nessuno può adempiere appieno quelle condizioni, ma ognuno può incamminarsi su quella via. Ciò che importa è la volontà, l'intenzione di avviarsi su quella strada. La prima condizione è di porre attenzione alla salute del corpo e dello spirito. Non dipende certo da noi avere più o meno salute, ma ognuno può cercare di migliorarla. Soltanto ad un uomo sano può giungere una sana conoscenza. La scuola occulta non respinge chi non è sano, richiede però che il discepolo abbia la volontà di vivere sano. A questo riguardo, il discepolo deve arrivare alla maggiore autonomia possibile. I buoni consigli degli altri, che ognuno riceve, per lo più non richiesti, sono in genere superflui. Ognuno deve sforzarsi di badare a se stesso. In quanto al fisico, si tratta più che altro di evitare influenze dannose. Per compiere i nostri doveri dobbiamo spesso imporci cose non favorevoli alla nostra salute. Al momento giusto si deve saper porre il dovere al di sopra della cura per la salute. Con un po' di buona volontà a quante mai cose si può però rinunciare. Il dovere va posto in molti casi al di sopra della salute, a volte al di sopra della vita, ma il discepolo non deve mai porre il piacere al primo posto. Per lui il piacere può essere soltanto un mezzo per la salute e per la vita. A questo riguardo è senz'altro necessario che il discepolo sia completamente leale e sincero con se stesso. La vita ascetica nulla serve se è ispirata da momenti simili agli altri piaceri. Qualcuno può trovare soddisfazione nell'ascetismo come un altro se ne trova nel vino, però non può sperare che l'ascetismo lo aiuti a conseguire la conoscenza superiore. Molti attribuiscono tutto ciò che in apparenza ostacola il loro progresso in questa direzione alle condizioni della loro vita e dicono: nelle mie condizioni di vita non mi posso evolvere. Sotto altri riguardi può essere desiderabile per molti un cambiamento nelle condizioni della loro vita, ma nessuno deve farlo per seguire la disciplina occulta. Allo scopo basta che ognuno, nella condizione in cui si trova, faccia quanto più gli è possibile per la sua salute corporea e animica. Ogni genere di lavoro può riuscire utile all'umanità intera ed è molto superiore per l'umanità intera all'anima umana che si rende conto della necessità di un lavoro modestissimo, forse anche brutto, che non quella che pensa. Questo lavoro è troppo brutto per me, sono destinato ad altro. È importantissimo per il discepolo dell'occultismo aspirare alla completa salute spirituale. Una vita mentale o affettiva malsana allontana in tutti i casi dalle vie della conoscenza superiore. Per essa sono basilari la calma e la chiarezza nel pensiero, la sicurezza nelle impressioni e nel sentimento. Nulla il discepolo deve evitare quanto la tendenza al fantasticare, all'eccitazione, alla nervosità, all'esaltazione, al fanatismo. Deve considerare con sana visione tutte le condizioni della vita, orientarvisi con sicurezza, lasciare con calma che le cose parlino e agiscano su di lui. Ove necessario, deve tendere ad essere equo di fronte alla vita, evitando ogni esagerazione o unilateralità nel suo giudizio e nel suo sentimento. Se questa condizione non venisse osservata, il discepolo rischierebbe di trovarsi, anziché nei mondi superiori, in quelli creati dalla propria immaginazione. Invece della verità, si affermerebbero in lui le sue opinioni predilette. È meglio per il discepolo essere freddo che non esaltato o stravagante.